Siamo al telefono con Flavia per parlare un po' di Nova Festival. Intanto ciao Flavia, grazie mille di essere qui con noi su Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a voi e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Fujiko. Seconda edizione di Nova Festival, quali sono i punti di forza della prima edizione che portate avanti? Beh, devo dire che il punto di forza sicuramente è l'essersi messi insieme cinque realtà, cinque differenti linguaggi per insomma provare a rimarcare l'esistenza e anche un po' di resistenza del mondo della musica nel settore musicale live dopo questi due anni di pandemia, chiusure forzate eccetera eccetera, e quindi un po' questo è il core, diciamo, che ha fatto nascere Nova e che anche in questo secondo anno vede insomma l'importanza di cominciare a ragionare insieme, a capire come ci si può unire da tanti punti di vista, no? Perché Nova è un'esperienza che vede appunto la partecipazione di Estragon, Kobo Club, Robot Festival, Dumbo e anche TPO, e nel dire siamo qui, la volontà di tornare a fare cultura nel cuore di Bologna e continuare a fare delle proposte di musica dal vivo, so questo. E a proposito di realtà diverse, quest'anno Nova Festival triplica, non solo raddoppia, perché ci sono delle date al Dumbo, delle date al Kobo Summer e una data anche al Botanique, tutto sotto l'organizzazione di Nova. Come mai la decisione di farlo itinerante, diciamo? Ma era sempre un po' stato nelle corde del progetto, no? In qualche modo Nova nasce dalla necessità di condividere i percorsi, le competenze, le risorse, le vere e proprie risorse, le idee e anche gli spazi. L'anno scorso si è deciso di partire con la realizzazione dell'Arena Dumbo, che sembrava una sfida incredibile, no? Ricordiamo che l'anno scorso tutte le regole per il distanziamento e per la fruizione degli spettacoli dal vivo erano davvero molto strette e importanti, quindi i posti a sedere, il recuperare 1000 sedie che poi erano 2000, le mascherine e tutte le varie procedure per tenere il distanziamento, che solo a ricordarmene mi fanno ancora venire i brividi un po' lungo la schiena, no? Quindi l'anno scorso un po' è stata una prima risposta. Come secondo anno era interessante vedere anche cosa di questa condivisione potesse passare anche per gli spazi. Sicuramente questo è un altro esperimento e quindi a vedere come appunto sia l'Arena Dumbo, che verrà rifatta senza quest'anno le sedie e con fortunatamente delle regole molto più libere nell'usufruire degli eventi, possano essere trasportate anche negli altri spazi, Kobo Summer e Botanique e anche Dumbo. Ovviamente, non vediamo l'ora di scoprirlo. Oltretutto un'altra, che possiamo definirla un po' una novità, è che oltre alla musica, perché ci sono vari concerti di livello altissimo, c'è anche della stand-up comedy. Ecco, qual è un po' il filo comune che unisce tutte queste realtà artistiche? Sai, il filo comune è stato un po' quello di cercare artisti e percorsi artistici che un po' potessero rappresentare tutte le esperienze nella loro assoluta diversità, no? Perché non possiamo nascondere il fatto che queste cinque realtà sono molto diverse anche dal punto di vista della proposta artistica, banalmente anche delle modalità di lavoro e del tipo di realtà, no? Quindi la sfida è stata anche trovare un po' una cifra che potesse rappresentare tutti questi stilemi. Quindi, insomma, ci sono degli eventi che magari sono un po' più riconoscibili per un percorso lungo come quello di Kobo, o più riconoscibili rispetto al percorso di Robot, no? Ne cito due, per esempio, inaugureremo mercoledì con questa che sarà una bella festa per quanto riguarda Nova con i Dinosaur Junior, e costruiamo con Sarston Moore Group con la di King Hanna, e poi andiamo avanti con quello che dicevi tu poco fa, no? Pierluigi Mariti, conosciuto come Piuttosto Che su Instagram, uno delle nuove leve, se vogliamo. diciamo, un po' di quella che è l'irriverenza, e anche la stand-up comedy, un misto tra reading e spettacolo, che arriva da una collaborazione che almeno TPO ha da tanto tempo in essere con We Reading, famoso festival, che per primo ha inventato un po' questo format di invitare artisti e artiste a confrontarsi su dei pezzi di letteratura. E ancora in Uganea, che hanno deciso di invitare per l'occasione il mitico Sean Cooty, Franco 126 o Margherita Vicario, insomma tanti linguaggi diversi, tanti generi diversi, per vedere un po' come questa commistione, che sembra ancora sulla carta un po' strana, possa in realtà arrivare a tante e a tanti, in modo anche per seccare, no, le esperienze. Ecco, a tutto quello che hai detto tu si sono aggiunti poi appunto i Black Lips e King Khan al Covo Summer, sempre a giugno, e Edoardo Ferrario con uno spettacolo che si chiama Il Dittatore Sanitario, che già questo fa venire voglia di andarlo a scoprire. Beh, sai, Edoardo Ferrario assieme a Luca Lavenna l'anno scorso sono stati il vero grande exploit di Nova Festival con il loro spettacolo Kashmir, che hanno deciso di portare lì all'Arena Dumbo con un successo di pubblico veramente notevole. Quest'anno avevamo veramente un grande desiderio di riospitare e alla fine abbiamo avuto la possibilità di farlo, avremo la possibilità di farlo all'interno della cornice di Botanique. Insomma, quindi c'è, come vedi, varietà, non è solo una parola per quanto riguarda Nova, ma proprio abbiamo provato ad applicarla. È uno stile di vita quasi. Ci hai detto un po' quelli che saranno tutti i grandi appuntamenti. Ti chiedo, dal punto di vista, diciamo, un po' di informazioni, dove possono trovare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, tutte le informazioni su date, biglietti, come raggiungere Dumbo, se ci dai un attimo di istruzioni, dai, infologistiche chiamiamole. Ah beh, dai, le infologistiche sono, Dumbo, via Casarini 19, dove c'è appunto la costruzione di questa arena ex novo all'aperto, che è come abbiamo fatto l'anno scorso, e ripeto, però questa volta senza le sedute e il distanziamento. Tutti gli show e i biglietti si trovano sul sito di Nova, che è molto semplice, www.novabologna.it, in cui trovate tutte le informazioni sul progetto, le date e i link per acquistare le prevendite. Ci tengo anche a sottolineare che, laddove possibile, Nova fin dall'inizio ha cercato di fare un'operazione di accessibilità dei prezzi, non a caso, insomma, la prima data abbiamo cercato di tenerla con un prezzo più popolare possibile, Dinosaur Junior a soli 10 euro, e anche Thurston Moore a soli 15, con la possibilità di fare una combo e quindi con 20 euro di vedere tutti gli spettacoli. Laddove è possibile, e dico, lo sottolineo perché non è sempre possibile, a seconda, insomma, anche dei costi che come organizzazione dobbiamo tenere, però abbiamo veramente fatto un lavoro dove abbiamo cercato, insomma, di rendere accessibile a quanto più pubblico possibile gli eventi, perché è vero che sono stati 2 anni molto complicati, ma sono stati 2 anni molto complicati anche per la vita delle persone, non solo per chi organizzava gli eventi, ecco, anche per chi li ha frequentati e li è andati a vedere e li ha anche sempre sostenuti. Grazie mille, quindi invitiamo tutte e tutti a questi prezzi, oltretutto, a seguire, andare a vedere appunto novabologna.it, andare a vedere i concerti. A questo punto ti faccio una domanda un po' più personale. Per chiudere l'intervista, quale delle band che suoneranno poi al Nova, in questa seconda edizione del Nova, vorresti mettere per salutare il nostro pubblico e per chiudere l'intervista? Questa è una domanda molto difficile da fare a chi organizza, perché poi cerchi sempre che hai paura di penalizzare gli altri o le altre in questo caso. Forse però ti direi, visto che è appena uscito fresco di stampa, il disco di Nugenea. Ci ascoltiamo in Nugenea. Grazie mille Flavia, è stato un grandissimo piacere, ci vediamo al Nova. A presto, grazie a voi, grazie a Radio Fujiko come sempre, un abbraccio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.